America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. My fellow Americans, tonight I'd like to talk with you about immigration. Barack Obama, il presidente americano, sfida il Congresso sull'immigrazione. Ha presentato un executive order, una specie di decreto legge contro la volontà dei repubblicani, ma lui può farlo perché il potere esecutivo gli consente questo tipo di sfide, e la sua idea è di regolarizzare almeno 5 milioni di lavoratori illegali. Non c'è per ora l'idea di un percorso verso la cittadinanza, ma il dibattito sta esplodendo in queste ore. Barack Obama sarà in comizio oggi. Noi ne riparleremo la settimana prossima per darvi un'idea di quello che sta capitando. Ma intanto, io come sapete faccio spesso puntate di solo andata. Solo andata in fondo è una forma di immigrazione, anzi è un'immigrazione, perché spesso molti che arrivano con un biglietto di solo andata poi si fermano. Siamo partiti dal camionista Facchinetti, abbiamo esplorato un po' tutte le professioni, ci mancava quella del professore universitario. E dunque, oggi legge sull'immigrazione e solo andata. America 24. Io con me ai microfoni di America 24 un professore italiano che insegna italiano a New York University, Stefano Albertini, direttore dell'Istituto Italiano Zerilli Menimò della NYU, con cui tra l'altro abbiamo parlato qualche tempo fa anche di cultura italiana. Buongiorno Stefano. Buongiorno Mario. Come hai cercato, come si è sviluppata questa tua avventura americana? Sapevi di comprare un biglietto di sola andata quando sei venuto la prima volta? No, avevo comprato un biglietto andata e ritorno, e con un ritorno aperto, perché non sapevo nemmeno se avrei voluto rimanere per i 3 mesi previsti da questa prima esperienza. E perché eri venuto in quella primissima esperienza? Io vengo da un paese in Italia di 4.000 persone che si chiama Bozzolo, che in inglese vuol dire cocoon, e fa sbellicare dalle risi i miei studenti. Allora, intanto scusa, ti interrompo, salutiamo tutti coloro che a Bozzolo, spero molti dei 4.000, ci stanno ascoltando. Poi parliamo della provincia di Mantova, quindi insomma diciamo potremmo avere un audience un po' più allargata. Ma andiamo avanti, per i mantovani, come si arriva a New York? Si arriva un po' per caso, perché io volevo andare in un paese anglofono a perfezionare l'inglese, perché l'avevo studiato molto all'università, ero molto bravo in letteratura, la grammatica la conoscevo perfettamente, ma non lo parlavo. Quindi scusa, tu eri già laureato a quel punto? Sì. Sì, mi ero laureato in lettere a Parma, avevo questa conoscenza molto didattica dell'inglese, ma non potevo parlarlo e tantomeno capirlo. Scusa, continuo a interrompere, ma eri mai venuto prima negli Stati Uniti? Non ero mai venuto negli Stati Uniti, non ero mai andato in un paese anglofono, non avevo mai preso un aereo. A un certo punto ho mandato questa lettera, che se ci penso adesso arrossisco dalla vergogna dei termini in cui era scritta, messa, a un centinaio di dipartimenti di italiano, perché ho detto: qual è l'unica cosa che io posso fare per mantenermi? L'unica cosa che so veramente bene è la mia lingua, potrei insegnare quella. E a 100 dipartimenti fra Inghilterra, Irlanda e Stati Uniti di italiano ho offerto i miei servigi come insegnante appena laureato. Gli americani ti prendono sul serio, devo dire anche gli irlandesi, gli inglesi un po' meno. E alla fine di queste 100 domande, molte non risposte, molte lettere gentili che riconoscevano di aver ricevuto la lettera, e due proposte, una da University College Dublin e una da University of Virginia negli Stati Uniti. Ho optato per quella ed è stato il mio primo approdo americano, e sono passato dalla pianura padana alla pianura virginiana. E questo era quanti anni fa, scusa? 1990, gennaio 1990 sono atterrato a Washington, e poi ho preso il mio autobus e sono andato a Charlotte, Virginia. Questa è una delle università più belle in assoluto degli Stati Uniti, il campus disegnato da Thomas Jefferson, stile neoclassico. La cosiddetta UVA, University of Virginia, diciamolo per i nostri ascoltatori, è una delle 4 grandi università pubbliche americane, perché è un'università statale, ma è considerata una delle migliori d'America, devo dire, a livello anche di Yale, di Harvard, insomma delle più importanti università private. E fu una sorpresa fantastica, di là di questa architettura meravigliosa che ricordava l'Italia. Mi pagavano per studiare, mi davano dei soldi per mandarmi a lezione, e io in cambio insegnavo un'ora di italiano al giorno, che è sempre stata una cosa, fra l'altro, che mi ha dato grandissima soddisfazione. Qual è stata la tua reazione all'approccio americano all'università, al college e a quello italiano? Questi campus meravigliosi, questi prati, queste costruzioni? Io venivo dall'Università di Parma, che non è una grande università, dove le cose tutto sommato funzionavano anche abbastanza bene. Io non sputo nella scodella da cui ho mangiato e dove mi sono formato. Però evidentemente l'Università della Virginia era la biblioteca aperta 16 ore al giorno, gli scaffali disponibili, uno poteva entrare e prendersi direttamente i libri, una videoteca che mi sembrava un sogno, c'erano tutti i film del mondo, uno se li poteva andare a vedere a qualunque ora del giorno e della notte. Per cui, come hai detto, è un'università statale ma che funziona con l'efficienza di una privata di primissimo livello. Ecco, qual è stato il processo che ti ha portato poi a restare? E mi sembra di capire, stai quasi per celebrare le nozze d'argento con l'America. Sì, gennaio saranno 25 anni. Nel frattempo facevo anche concorsi in Italia, li ho passati, avevo vinto una cattedra nei licei, perché tenevo comunque il piede in due scarpe, il più possibile. E poi a un certo punto ho dovuto decidere. Dopo la Virginia sono stato a Stanford per il mio dottorato e una volta terminato, quasi terminato il dottorato, ho avuto il mio primo lavoro a New York University. E quindi sei arrivato nella grande mela e lì poi ti sei fermato. Sì. Ecco, e dovendo dare un consiglio a qualcuno che in Italia, a qualche giovane che oggi in Italia è titubante, perché magari c'è il rischio dell'ignoto, le incertezze, che consiglio dai? Il consiglio che do ai ragazzi italiani è di tenere comunque aperta la possibilità anche di venire a continuare a perfezionare i loro studi negli Stati Uniti, dove c'è una grandissima tradizione di postgraduate, e anche di perseguire un lavoro accademico negli Stati Uniti. Non dico che è facile, non dico che è probabile, ma dico che è possibile. E mentre in Italia ci sono ancora una serie di complicazioni, di clientele che rendono molto difficile l'ingresso nell'università, negli Stati Uniti le porte sono ancora aperte per tutti quelli che valgono qualcosa. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, e c'è ancora Stefano Albertini qui con noi in studio. Stefano, beh, lancia tu una canzone americana, vai. Abbiamo parlato di università e viene in mente The Graduate e quella grande canzone che è Mrs. Robinson. Ah, perfetto, perfetto, ma anche perché sei on the news, caro Stefano. Mike Nichols, il regista del laureato The Graduate, è purtroppo mancato ieri, quindi dedichiamo questa grande canzone anche a lui, a Mike Nichols, Mrs. Robinson. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento al lunedì. Goodbye and get going.